Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, forse, nei prossimi giorni avremo un governo, nel senso che l'incarico è stato dato a Enrico Letta, come molti di voi già ampiamente sanno, anche perché abbiamo trasmesso in diretta le dichiarazioni di Enrico Letta dopo aver ricevuto dal Presidente della Repubblica Napolitano l'incarico di formare un nuovo governo. E come ricordavano anche i nostri GR, ha detto: non farò un governo ad ogni costo, sarà un governo di servizio. La mia sorpresa è pari al senso di responsabilità. Il tutto arrivando, come già le agenzie battono da stamattina, arrivando al Quirinale guidando la sua macchina, per la precisione una Fiat Ulisse. Sono periodi di austerità e giustamente sono notizie che si fanno commentare. Allora, poi alcuni vogliono già sapere invece dell'operazione su Pomellato, la ricorderemo, abbiamo parlato ieri dell'operazione Francia su Italia, come confermato il gruppo guidato da François Pinault, non solo che ha Gucci già in Italia, ma non solo, anche Bottega Veneta, e non solo si comprerà Richard Ginori, ma anche Pomellato. Ne parleremo nel corso delle notizie in breve. Torniamo invece sul governo, perché delle poche, devo dire che le dichiarazioni dopo aver ricevuto l'incarico di Enrico Letta sono state dichiarazioni relativamente brevi. In queste dichiarazioni ha parlato soprattutto di economia, riferita sia sul fronte interno, cioè le difficoltà e la crisi che sta attraversando molti piccoli imprenditori e i dati sulla disoccupazione, ma anche sul fronte esterno, dicendo insomma l'epoca della sola austerità, e cita anche la Commissione Europea, quindi l'Europa, l'area euro ha solo trazione tedesca, aggiungo io, ha mostrato tutti i suoi limiti, ha mostrato che non è sufficiente da sola tirar fuori l'Europa da questa stagnazione barra recessione economica. Come hanno reagito i mercati? I mercati all'inizio negativi, adesso Milano si avvia a chiudere con un più 0,40% di rialzo, meglio Parigi più 1,40%, Francoforte più 1,14%, Londra più 0,36%, l'America meno 0,24%. Devo dire che tra i titoli c'è Parmalat più 3,70%, di Parmalat torneremo a parlare, già ieri lo abbiamo fatto, Prismian più 3,13%, Mediaset più 3,16%, Tenaris più 2,85%, e poi Eni più 2,60%, Fiat più 2,60%, ST Microelectronics più 2,5%, Azimut più 2,20%. Chi perde? Finmeccanica, dopo i conti il calo è significativo, meno 4,40%, Popolare di Milano meno 3,5%, SNAM meno 2,80%, Mediobanca meno 2,5%, Ansaldo meno 2,2% come la Popolare Emilia Romagna, l'1,5% lo perde Mediolanum, l'1,20% il Banco Popolare, ma anche UbiBanca, l'1% è il calo di Generali e anche di Campari. Ancora, per quello che riguarda i titoli, faccio notare che il titolo più forte è Rizzoli sul risparmio, più 14%, il peggiore è Seat, Pagine Gialle sull'ordinario, meno 5,50%. L'altra notizia, volete sapere, è in realtà una conferma: il gruppo del lusso francese Kering, che è ex PPR, già appunto proprietario in Italia e di Gucci Bottega Veneta, ha acquisito la quota di maggioranza di Pomellato. Nelle prossime settimane sarà finalizzata la transizione, si parlava di 300 milioni di euro circa. L'attuale amministratore delegato del gruppo, Andrea Morante, sarà confermato nelle sue funzioni. Continua lo shopping francese, dopo appunto Bulgari e appunto Gucci, Bottega Veneta, adesso Pomellato e Richard Ginori. Ancora, per quello che riguarda le altre notizie, abbiamo anche notizie purtroppo sugli sprechi della pubblica amministrazione e delle nostre regioni. Allora andiamo con ordine, perché la puntata sarà chiaramente dedicata alle sfide che attendono Enrico Letta a partire dal nuovo governo, però non solo. Poco fa è tornato a parlare anche il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Vítor Constâncio, il quale pochi minuti fa ha detto: il fatto che diversi paesi in difficoltà abbiano fatto grandi sforzi spiega perché gli spread si sono ridotti. Bisogna sottolineare che quello che è stato fatto in Spagna, da Spagna e Italia, che ora hanno collocato nelle aste i loro debiti e i mercati hanno creduto in loro. Quindi credono negli sforzi di Italia e Spagna. Però sempre Constanzio ha detto: nei mercati c'è il sospetto che le banche abbiano bisogno di ulteriore riparazione e questo sta influenzando la capacità di prestito degli istituti. Andiamo allora sulla crisi 3.0, come l'abbiamo chiamata ormai, visto che 2.0 ce l'abbiamo già vista, e poi anche con le altre notizie in breve. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Tweet da 200 miliardi, insomma il messaggio pirata che ha violato ieri l'account Twitter dell'agenzia di stampa Associated Press e costò ieri al mercato azionario americano un crollo da 200 miliardi di dollari, stando alle stime del Wall Street Journal, e ha riaperto il dibattito sulla vulnerabilità delle borse legata a shock provocati dal trading computerizzato e super veloce. Il falso tweet aveva riportato infatti l'esplosione di bombe alla Casa Bianca e il ferimento del presidente Barack Obama, l'avete letto oggi sui giornali. La notizia è stata smentita il più rapidamente possibile a livello umano. Il problema è che quando tu lavori al secondo, la smentita non è arrivata abbastanza in fretta da fermare programmi automatici di compravendita di azioni che in due minuti hanno cancellato 145 punti sull'indice Dow Jones e bruciato, quindi fatto perdere valore di borsa per 200 miliardi di dollari. Poi gli indici si sono ripresi, ma insomma è la borsa telematica bellezza, potremmo dire, solo che in questo caso attenzione. Per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, dicevamo appunto delle dichiarazioni del vicepresidente, però oggi ha parlato anche il presidente della Bundesbank, della Banca Centrale Tedesca, ossia Hans Widmann, a Dresda, e ha detto: Cipro non è un modello per futuri salvataggi. Ringraziamo, quindi Dissenblum, non mi frega nulla come si pronunci l'estemporaneo Forrest Gump olandese, così presidente dell'Eurogruppo di passaggio, quando disse Cipro potrebbe essere un modello per altri salvataggi in Europa, no? Anche i tedeschi l'hanno dovuto bacchettare. E ha aggiunto sempre Widmann che occorre concedere più tempo ai paesi, rispetto ai loro piani di rientro sul deficit mina gli impegni presi. Sono necessari sforzi enormi per superare l'attuale crisi dell'Unione Europea. Sì, sforzi enormi che stanno facendo però solo alcuni paesi, faccio notare. Comunque, nel frattempo la Banca d'Italia fa notare che resta molto debole la domanda di prestiti alle banche, c'è scarsa fiducia. L'indagine infatti rileva come per le imprese le richieste siano deboli a causa di minori finanziamenti di investimenti, mentre per le famiglie pesi la bassa fiducia dei consumatori. E poi c'è l'Istat che esce con i dati sulla disoccupazione. E qui ci riagganciamo ai temi di politica economica di casa nostra. Allora, volete sapere quanto era il tasso di disoccupazione nel nostro sud nel 1977? Era il 6,4%. Ho capito che eravamo meno ricchi nel 77, però lavoravamo di più. Parlo del mezzogiorno in questo caso. Adesso siamo quasi all'11%, che vuol dire che il tasso di disoccupazione al sud è raddoppiato. Sebbene ci siano andamenti simili nelle tre macro aree del paese, però i ritmi sono diversi. In 35 anni, infatti, il nostro mezzogiorno è quello che ha mostrato la crescita maggiore della disoccupazione. Lì è passato infatti dall'8% al 17%. In media in Italia è raddoppiato, ma al sud ha fatto dall'8 al 17%. E anche la disoccupazione giovanile è a livello più alto da quando la misuriamo, dal 1977. ma lo dico per così qualcuno anche a Roma si renderà conto. Dal 1977, da quando esistono le serie storiche, non si era mai avuta una disoccupazione giovanile al 35,3%. È il record da 35 anni a questa parte. Intanto CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno siglato questa mattina l'accordo per dare attuazione al decreto sulla detassazione del salario di produttività. Il decreto dello scorso 22 gennaio fissa per quest'anno a 40.000 euro il tetto di reddito annuo a cui viene applicata la tassazione agevolata al 10% e 2.500 euro lordi, l'ammontare massimo detassabile per ogni lavoratore. Non si placa nel frattempo l'emorragia delle vendite al dettaglio. Anche a febbraio 2010 hanno segnato un ulteriore calo, meno 4,8% rispetto a febbraio del 2012, che già non era un mese esaltante, con un calo delle vendite di alimentari, di alimenti, molto significativo, meno 4%. È l'ottava flessione consecutiva, la più forte come dato dall'aprile del 2012. E anche le vendite nei discount sono risultate in calo. No, lo dico perché insomma la disoccupazione ai massimi da quando esiste la serie storica, doppia rispetto al 77, nei giovani, nel sud in generale. Le vendite che continuano a calare, siamo tornati anche lì a quando esiste la serie storica, al 97 come consumi. Ieri il mitico ministro delle finanze tedesco Schäuble ha detto: ma in Italia sì, è un paese in cui si vive bene, io ci vengo in vacanza. Ma allora diamo di capirci, dipende dove va in vacanza lei, se va nel Chianti-Shire, se va in qualche ameno borgo magari con altri turisti è un conto, se poi si fa un giro magari nelle periferie italiane o anche nei centri dove chiudono le attività commerciali, vediamo. Infatti resteranno a casa per il ponte del 25 aprile praticamente 56 milioni di italiani, quasi tutti, sono 4 milioni e mezzo, 4 milioni e 350 mila gli italiani che andranno in vacanza, che pernoteranno almeno una notte fuori casa, poi bisogna vedere se è una vacanza o no, meno 11% rispetto al 2012, lo dico sempre a Schäuble, un paese in cui si vive bene, perché lei ci viene in vacanza, sì. Si vede sempre meno bene, caro Schäuble. Il giro d'affari sarà di 200 milioni di euro in meno rispetto all'anno scorso, meno 12%, 1 miliardo e 400 milioni per la precisione. I dubbi che oggi rileva il Sole 24 Ore sul bilancio della RAI. Perché non c'è solo un rosso da 244 milioni di euro nel 2012, ma anche dubbi sull'attivo del 2011. Nel 2011 fu firmato un bilancio in cui c'era un attivo da 4 milioni di euro. Però sarebbero stati fatturati nel bilancio 2011 61 milioni di spot di pubblicità trasmessi in realtà nel 2012. Con accorgimenti che non intaccherebbero la regolarità contabile del documento, ma abbellirebbero i conti e avrebbero in questo modo scongiurato il rischio di un commissariamento. Oggi i due consiglieri che si sono astenuti dall'approvazione del bilancio, sia Gerardo Colombo e Benedetta Tobagi, hanno chiesto chiarimenti su questo punto. L'anno scorso, ricordo che Viale Mazzini, la RAI ha registrato una posizione finanziaria negativa per 366 milioni di euro, con un peggioramento di 93 milioni di euro, mentre nel 2009 la cassa era ancora in attivo per 31 milioni di euro. Pesano i costi della transizione al digitale terrestre e il calo degli introiti pubblicitari, nonostante la RAI si confermi leader di ascolti, il 43% in media nella prima serata. Dalla Gran Bretagna un'ultima notizia, poi passiamo a raccontare, noi non è che cambiamo il nostro registro, passiamo a raccontare anche gli sprechi della nostra politica e poi andiamo a parlare, a ragionare sulle sfide che attendono Enrico Letta, e ne parleremo con chi è stato il Presidente del Consiglio di cui Enrico Letta era sottosegretario. Vediamo se indovinate. Enrico Letta ha fatto il Ministro dell'Industria nel passato, è stato anche Ministro per i Rapporti con l'Unione Europea, ma è stato anche sottosegretario in un governo, e avremo l'allora Presidente del Consiglio. Per parlare di Enrico Letta e delle sfide che lo attendono, dicevo però, noi non molliamo il colpo sugli sprechi. E allora, mentre in Gran Bretagna c'è un dato che in qualche modo si colloca nell'alveo dei dati che ricordiamo noi sulla crisi, è quasi triplicato il numero dei cittadini del Regno Unito, appunto, che si rivolgono alle banche del cibo perché non riescono a permettersi nemmeno gli alimenti. Lo ha pubblicato l'associazione no profit Trussell Trust, che gestisce le food bank, le banche del cibo britanniche, da 128.000 assistiti nel 2011 da 346.000 nel 2012-2013. Fra le persone che hanno ricevuto forniture di cibo di emergenza ci sono poveri, disoccupati, ma anche 126.000 bambini, stiamo parlando della Gran Bretagna, che vivono in famiglie strette nella morsa della crisi. Ecco, questo è la Gran Bretagna. Poi abbiamo visto i dati sull'Italia, sulla disoccupazione, sui consumi in crollo verticale. C'era una parte del paese invece che continuava a fare giri di valzer sul Titanic fino alla fine. Abbassare la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tre che più. Vabbè, è chiaro che oggi nel Pantheon della nostra rubrica il primo posto se lo becca l'inchiesta che ha portato all'arresto questa mattina di Francesco Bellito, ex tesoriere della Lega Nord, arrestato dalla Guardia di Finanza per associazione a delinquere, truffa aggravata in relazione all'inchiesta sui fondi del Carroccio. È spuntato anche uno yacht dal valore di 2,5 milioni di euro acquistato da Riccardo Bossi, figlio di Umberto, nell'inchiesta milanese che ha portato appunto all'arresto di Bellito. Lo yacht, stando all'ordinanza del GIP, sarebbe stato comprato con la proprietà indebita dei fondi del Carroccio, e si legge nel provvedimento del GIP Criscione: Francesco Bellito, da tesoriere, ha tentato di depredare il patrimonio della Lega e ha interpretato il ruolo di uomo politico con l'unica finalità di approfittare dell'opportunità che tale qualifica gli offriva. Arrestato anche Stefano Bonet, l'uomo degli investimenti in Tanzania con i soldi del Carroccio. Ma non è tutto, perché oggi tra gli arrestati, qui la Lega non c'entra, ci sono anche, andiamo in Basilicata, Vincenzo Vitti del PD, era assessore al lavoro e alla formazione alla regione Basilicata, e Rosa Mastro Simone, è un'esterna in quota IDV ed era assessore all'agricoltura. E poi ai domiciliari anche Nicola Pagliuca, capogruppo del PDL. Anche qui inchiesta sull'uso illecito di rimborsi previsti per le loro attività. E poi 8 divieti di dimora notificati sempre nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi illeciti percepiti dai consiglieri regionali della Basilicata, riguardano i consiglieri in carica Antonio Autilio dell'Italia dei Valori, Paolo Castelluccio del PDL, Agatino Mancusi dell'UDC, Mariano Picci del PDL, Alessandro Singetta del gruppo misto, Mario Venezia del PDL, Rocco Vita del PSI e l'ex consigliere Vincenzo Ruggero dell'UDC. Sequestrati sempre in Basilicata, sempre in mezzo a questa inchiesta, anche conti correnti per un valore di circa 100.000 euro. Sequestrati agli assessori del consigliere regionale Lucani, indagati dai 5 ai 18 mila euro per i loro conti correnti. E il PM Laura Triassi dice: è uno scenario di diffusa illegalità, quello che emerge dall'inchiesta. Se in effetti a guardare i nomi dei partiti sembra che, diciamo, il governo di scopo, il governo di grande coalizione in Basilicata l'avessero già inventato. Lo scopo non mi sembra di quelli alti, né a favore della patria. In tutto questo poi è interessante perché nel frattempo a Firenze rischia di chiudere il centro di consulenza tiflodidattica, cioè quella struttura che esiste da tanti anni a Firenze, che è indispensabile per le persone non vedenti o per gli ipovedenti. L'Unione Italiana Ciechi si è rivolta al sindaco Matteo Renzi, al presidente della provincia Andrea Barducci, al governatore Enrico Rossi. Ricordano dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi che rischia di chiudere a causa del taglio dei fondi governativi. In Toscana, fin dagli anni 50, molti non vedenti hanno potuto studiare grazie alla presenza di servizi di supporto come quel centro, che fa tra l'altro consulenza, prestiti, indicazioni riguardo alla scelta del materiale didattico e riabilitativo, un ruolo fondamentale nell'aiuto e nell'assistenza. Eppure per il centro, per i non vedenti di Firenze, i soldi non ci sono. Qualcuno si ricorda la polemica con l'allora governatore Polverini, e ancora non sapevamo cosa sarà mangiata di soldi e ruberie il suo consiglio regionale per la chiusura del centro di riabilitazione per bambini e adulti con problemi psicomotori Santa Lucia, se non ricordo male, di Roma, perché non si trovano 50 milioni, abbiamo scoperto cosa sarà mangiato Fiorito and Company. E allo stesso modo a me lascia molto perplesso leggere che a Piacenza c'è un contenzioso tra un privato e la prefettura che ha approdato davanti al giudice civile. Si tratta dell'affitto della caserma dei carabinieri di Farini a Piacenza. Negli ultimi anni non è stato pagato dal ministero per circa 40.000 euro. E a questo punto l'ARMA ha deciso di trovare un'altra sistemazione, però il nuovo affitto non è stato più pagato. Insomma, il locatore ha citato in giudizio la prefettura, stipulatrice del contratto per conto dei carabinieri. Ieri il giudice ha messo un'ordinanza, i carabinieri se ne devono andare. L'appello di Napolitano di ieri, possiamo risentirlo come un mantra, quello che già sentimmo ieri, così non mandiamo Quinto Potere, ne mandiamo Napolitano. Attenzione, il vostro applauso, quest'ultimo richiamo che ho sentito di dover esprimere, non induca ad alcuna autoindulgenza. Non dico solo Non dico solo i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle diverse sfere della politica e dell'amministrazione, ma nemmeno i responsabili di tanti nulla di fatto nel campo delle riforme. Monumentale, bello che dice, non con questo applauso non pensate di autoassolvervi, e lo applaudono, ma comunque noi lo manderemo in onda ogni volta perché ci sono i responsabili diretti dello spreco di risorse pubbliche di questo paese, e quelli devono andare in carcere e in galera ed essere condannati, ma ci sono anche tutti quelli che non hanno visto, e lo dice il Presidente della Repubblica, il nulla di fatto nel riformare la politica, nel riformare i fondi alla politica e quant'altro. Meteo, pubblicità e poi partiamo con Borsa, con chi ebbe come sottosegretario Enrico Letta nel suo governo, e poi con le sfide che attendono il neo presidente del Consiglio incaricato. 349-238-6666 per gli SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, commentiamo rapidamente la borsa e poi iniziamo a capire che cosa attenda Enrico Letta, al di là e non solo nella formazione del nuovo governo. La borsa, dicevo, alla fine anche Milano ha chiuso positiva, più 0,44%. Meglio ha fatto Parigi, più 1,60%, Francoforte più 1,30%, Londra più 0,35%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, sale meno delle altre borse europee? Milano, ma almeno ha girato positivamente nel pomeriggio. Devo dire che Milano era già cresciuta più di altre borse nei giorni scorsi, qualche presa di beneficio sulla Popolare di Milano meno 4%, Mediobanca meno 2,80, Banco Popolare meno 0,70. Invece, quali reazioni ha avuto la scelta di Enrico Letta come Presidente del Consiglio sulla borsa e anche sui titoli, Eleonora? Sì, allora, appena è uscita l'indicazione di Enrico Letta, la borsa ha girato in negativo, ma soprattutto perché di lì a poco lo stesso Letta ha sottolineato che il governo non nascerà a tutti i costi, ma solo se ci saranno le condizioni. Quindi diciamo che ha introdotto ancora una volta un po' di instabilità, ovviamente sui mercati, che vogliono tutte subito delle certezze immediate. Poi nel pomeriggio pian piano ha ripreso quota la borsa. Va detto anche, come hai detto tu, che sono scattate le prese di beneficio. Piazza Affari nei giorni scorsi aveva fatto molto bene, in quattro sedute l'indice aveva guadagnato il 7,2%, quindi si è preferito sposare probabilmente un atteggiamento più prudente proprio nell'attesa del governo che cercherà di formare Letta. E non a ogni costo, come ha detto. Comunque andiamo avanti, BPM. Ma qui c'è qualche voce di che stia rallentando il progetto di trasformazione in spa? Allora, giusto ieri proprio spa, io ho parlato come con sauna e bellezza, ma come società per azioni, prego. Giusto ieri proprio io ho parlato con il presidente Annunziata, il presidente che si è dimesso due giorni fa e che fino a due giorni fa era il presidente del consiglio di sorveglianza, il quale ha sottolineato che anche se si dimettesse l'intero consiglio di sorveglianza, questo non impatterebbe sul processo di trasformazione in SPA. Ovviamente però la borsa ha recepito le dimissioni prima di Annunziata e poi ieri di tre membri sempre del consiglio di sorveglianza come diciamo Maretta che potrebbe impattare negativamente anche su quello che è proprio il progetto di trasformazione in SPA che l'assemblea dei soci dovrà varare il prossimo giugno. Mediaset più 3,38. Mediaset continua a registrare questo progresso, oggi si è tenuta all'assemblea dei soci, ma diciamo che a sollecitare gli ordini in acquisto e soprattutto il ritorno in grande spolvero di Silvio Berlusconi sulla scena politica, di cui appunto potrebbe beneficiare la stessa Mediaset, almeno questo è il commento dei trader. Ancora tra Finmeccanica, ieri conti inferiori alle attese, Moody's ha messo sotto osservazione il titolo e insomma perde il 5,50% sotto i 4 euro per azione oggi. Sì, oggi infatti la notizia di Moody's soprattutto ha preoccupato il mercato. Comunque l'azienda, ricordiamo che ha chiuso con un rosso di 686 milioni il 2012, è un rosso in miglioramento rispetto ai 2,3 miliardi dell'anno precedente. D'altra parte si continua a parlare di perdite e Moody's soprattutto ha detto che potrebbe rivedere ancora al ribasso il giudizio sui titoli nel caso in cui effettivamente avvenisse i titoli obbligazionari arriverebbero al livello junk, cioè spazzatura, che non è il massimo per un gruppo come Finmeccanica. Vorrei andare avanti con Snam meno 3%, Mediobanca meno 2,80, Ansaldo meno 2,5%, come Popolare Emilia Romagna, Mediolanum meno 1,60, Campari meno 1,30, Generali meno 1%, migliori e peggiori. Finmeccanica è la peggiore oggi, Screen Service 5,40%, Moleskine non porta bene questo debutto in borsa, meno 5%, porta bene invece un altro debutto in borsa, c'è una matricola, no? La Sacom, può essere? Sì, esatto. Sacom in verità ha chiuso anch'essa in calo del 2%, ma fino al primo pomeriggio comunque le azioni erano ben comprate, erano partite in spolvero, poi ha virato proprio sul finale. L'azienda è attiva nel settore delle biotecnologie alimentari, è un'azienda molto piccola, ha chiuso il 2012 con ricavi di 33 milioni e capitalizza in borsa circa 35 milioni. Ma cosa fa, mi dicevi, scusa? Praticamente diciamo concimi, detto in parole più povere, comunque fa biotecnologie alimentari. Fa concimi. No, perché può essere che il calo sia dovuto anche a un eccesso di materia prima in questo paese, no? Ogni tanto, forse chissà. Vabbè, è un'interpretazione. Il materiale per concime in questo paese non manca, mettiamola così. Grazie, Eleonora Micheli. Radio Corriere Sole 24 Ore, vi do solo un aggiornamento da Wall Street, che in questo momento perde lo 0,17%, euro sotto quota 1,30, 1,29,94. Comunque stabile, allora iniziamo a ragionare sull'incarico che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dato questa mattina a Enrico Letta, vicepresidente del PD, per formare un nuovo governo. Da rito Enrico Letta ha accettato con riserva. Avete già sentito le parole del Presidente Napolitano, poi le faremo risentire. Vorrei però invece ascoltare uno dei primi passaggi fatto da Enrico Letta nel suo intervento, che riguarda l'emergenza giovani da un lato, ma anche tenuta del sistema industriale di questo paese. Ho ricevuto l'incarico che ho accettato con riserva secondo la formula di rito. La mia sorpresa stamattina nel ricevere la telefonata del Presidente del Consiglio è stata pari al senso di profonda responsabilità che questo incarico mi fa sentire sulle spalle, che mi impegna. La situazione è quella che conosciamo, una situazione molto difficile, fragile, inedita. Dalle urne non è uscita una maggioranza, sono passati 60 giorni, il Paese sta aspettando un governo. Tutti sappiamo che questa è una situazione che non può più durare così. In questo senso ho accettato questo incarico, questo invito, questa responsabilità. Ed è una responsabilità che sento forte sulle mie spalle, se posso permettermi di dirlo, sento più forte e più pesante della stessa capacità delle mie spalle di reggerla. Però con grande determinazione mi metto in questo impegno, perché penso che il Paese abbia bisogno di risposte. Penso soprattutto che abbia bisogno di risposte quella parte del Paese che soffre, quella parte che ha oggi la difficoltà maggiore sul terreno del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro che si è perso, le imprese che chiudono, le piccole e medie imprese italiane, il cuore del nostro sistema produttivo, il senso della povertà che cresce, i giovani che vanno via dall'Italia perché non trovano occasione nel nostro Paese. Il primo importante impegno è quello di dare risposta soprattutto a questa emergenza, che è diventata un'emergenza enorme e insopportabile. Allora, queste le parole di Enrico Letta, poi ascolteremo altri passaggi. Nel giorno in cui, come ricordavamo in apertura, lì è stata diffusa i dati sulla disoccupazione, che nel sud in generale in Italia è doppia rispetto al 1977, dal 6,4% al 10,7%, e nel sud va anche peggio, perché in 35 anni siamo passati dal 17% di disoccupati, dall'8% di disoccupati, scusate, al 17%. Disoccupazione record anche per i giovani, è la più alta dal 77, attenzione, è quando abbiamo le serie storiche, cioè da quando la misuriamo. Anche qui 35,3%. Professor Romano Prodi, buonasera. Buonasera a lei. Allora, chiaramente lei ha avuto Enrico Letta come suo membro del suo governo, ma con lei vorrei affrontare i temi che riguardano la parte interna dell'economia e poi anche le sfide, perché poi farò sentire un passaggio in cui Letta ha detto basta con l'austerità come unica ricetta, è finito. La ricetta non è più miracolosa, però mi dica una cosa. Forse la domanda è pleonastica, avendolo avuto lei nel governo, ma è contento per l'incarico a Letta? Evidentemente sì, io spero proprio che dia un impulso all'economia, di cui c'è un impulso di cui c'è un enorme bisogno, no? Le emergenze che ha elencato ormai sono supportate da delle cifre che fanno impressione, insomma, disoccupazione giovanile del 35%. Vuol dire non avere più speranza se noi continuiamo così. Quindi io, il fatto che abbia nella prima dichiarazione messo in rilievo questi temi mi fa sperare che siano affrontati con vigore. Ma dal lato della sua esperienza, lei, il governo si farà, ce la farà Letta secondo lei? No, questo non ho la minima idea se il governo si farà, perché voglio dire, anche recentemente qualche previsione su di me è stata smentita, quindi appena 100 voti in meno, 100 voti in meno. Lo può chiedere a tutti una previsione, meno che a me, capisci? Su questo apprezzo l'ironia, ma magari lei era cauto fin dall'inizio. Tra l'altro, beh, a me, proprio da giornalista, la voglia, ma lei se l'aspettava una cosa del genere in Parlamento sul suo nome? Dalla mattina me l'aspettavo, sì. Allora, avevo avuto così, subito la sensazione che non ci fosse l'unità che era stata in qualche modo conclamata. Vabbè, quindi lei dice, auguri Enrico Letta, le sfide sono importanti, le chiedo ancora un minuto di pazienza, professor Prodi, perché dopo il traffico vorrei parlare proprio dei contenuti, come facciamo in questo programma, non solo delle alleanze politiche, e vedremo poi quale alleanza, quale squadra di governo tra domani, dopodomani, non sappiamo ancora la data, Enrico Letta porterà al Presidente della Repubblica. Però sono due temi li ha già toccati e sono le sfide principali. Un minuto di pazienza, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Professor Prodi, qua Letta ha detto, mi metto in impegno perché pensa bisogno di risposte, però lei da economista, oltre che da ex Presidente del Consiglio, sa benissimo che l'occupazione non si crea per decreto, per cui bisogna anche stare attenti a illudere. Che cosa può fare un governo pure bipartisan, pure di ampia maggioranza, con il massimo sostegno parlamentare, al di là della riforma elettorale e della riforma delle Camere e del Senato? Queste le lascio fuori perché non sono oggetto di questo programma. Però sul profilo economico, Letta è stato allievo di Andreatta, anche con cui anche lei ha avuto un rapporto molto intenso, e quindi? Guarda, la cosa è molto semplice, non illudiamoci di diminuire la disoccupazione se l'economia non cresce. Qui col segno meno non possiamo che aumentare la disoccupazione, quindi non facciamo giochini, perché il problema è una politica di vigorosa crescita che non può che essere fatto con un mutamento della politica europea. Cioè, vede, avendo perso una buona parte di sovranità, perché l'abbiamo conferita a un livello più elevato, allora le decisioni a un livello più elevato ci debbono vedere attivi nel difendere i nostri interessi, che, e qui è il grande cambiamento degli ultimi giorni, adesso sono ritenuti anche interessi comuni. Cioè, nelle ultime settimane è cambiato tutto intellettualmente, non c'è più un sostegno ideologico al rigore forsennato, ma c'è un ragionamento per cui solo la crescita, ovviamente accompagnata da una serietà nella spesa, permette il risanamento del bilancio. Si sono rovesciati i parametri intellettuali, quindi voglio dire, se l'Italia non crea una alleanza con gli altri paesi interessati a far sì che le teorie che ha portato avanti Olli Rehn negli ultimi mesi, che sono allucinanti, non vengano messe in discussione, noi difficilmente possiamo affrontare il problema dell'occupazione, perché è calato, e dunque il mercato interno è terribilmente basso. Le esportazioni in Europa, per il motivo che le ho detto, stanno male, c'è un calo ovviamente anche nelle esportazioni extraeuropee, perché avevano avuto uno sviluppo estremamente forte. Quindi o c'è una miccia, no? C'è un innesco nuovo, oppure è inutile pensare a una ripresa dell'occupazione. Sì, oppure rischiamo un innesco e una miccia di altro genere, professore. Esattamente. Allora, io veramente la situazione sociale. Allora, lei ha fatto un riferimento anche, diciamo, alla parte accademica. Noi ci siamo occupati a inizio settimana di questo, a me non piace usare parolacce, però questo sputtanamento lo devo dire, di quella che era la base ideologica più forte dell'austerità, e cioè, attenzione, è dimostrato da studi scientifici direbbe Gassman, dei soliti ignoti, che se l'alto debito non ti permette di avere una crescita del PIL. Questo era uno studio di Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt, che è stato sbugiardato dagli economisti dell'Università del Massachusetts, che hanno dimostrato come in questo studio i due economisti si fossero dimenticati di alcuni paesi, tra cui Australia e Nuova Zelanda, in cui, nonostante un alto debito, il PIL fosse cresciuto. Questo non per dire che l'alto debito ti fa crescere l'economia, ma che non c'è una correlazione tra alto debito e crescita del PIL, piuttosto è il contrario. Se tu hai un basso PIL, avrai un alto debito, se ho capito. Esattamente, esattamente. L'importante non è il fatto che abbiano dimenticato un paio di paesi, ma che non hanno fatto dei legami inversi rispetto a quello che può essere la realtà, cioè è la non crescita che produce l'alto debito e non viceversa. Quindi dobbiamo, comunque, sappiamo che dobbiamo avere un'economia sana, ecco. Una politica di serio equilibrio la dobbiamo avere, perché altrimenti abbiamo tutti i mercati contro, ma il suicidio dell'Europa non può avere la nostra approvazione. A volte mi hanno accusato, diceva antitedesco, mentre i tedeschi hanno, ma siamo ben chiari, la Germania è di gran lunga il paese più efficiente d'Europa, il più forte, e per virtù loro, ma debbono rendersi conto che da leadership vuol dire anche responsabilità, ma non la responsabilità di far la carità agli altri, ma semplicemente di fare una politica coerente con il loro ruolo. Il paese ha un fantastico surplus della bilancia commerciale, crescita zero in questo momento, inflazione zero, ma se non dai un po' di fuoco all'economia in queste condizioni, ma che cervello hai? Questo è il vero problema. Ecco, non lo fanno per motivi politici. Lei dice un paese che ha un surplus come la Germania, che è fermo perché comunque le esportazioni tedesche stanno rallentando, o inizia a spendere, l'inflazione tanto ce l'hai bassissima, o inizia a far spendere un po' i tuoi cittadini, quindi anche importare beni, far ripartire l'economia in Europa, o se no. Mi dica però una cosa, perché poi ho... Non solo, ma pensi che si sono convertiti fino gli olandesi, sì, cioè non sto dicendo tutti delle cose... Disembleme un po' meno, però insomma... In Olanda c'è un dibattito, ma è vero che gli olandesi nuovo, hanno rifiutato una misura di austerity 2 mesi fa. Esattamente. Per la prima volta. Mi dica una cosa, perché poi vorrei farle ascoltare anche cosa ha detto Enrico Letta a proposito dell'austerità in Europa. Però dopo il GR, professor Prodi, prima del GR, in questi 2 minuti, molti ascoltatori dicono, ma insomma, è Prodi che ci ha fatto entrare in Europa. Allora io le chiedo, visto che poco fa ne parlava, qualche giorno fa ne parlava anche Soros, oltre che Krugman e altri, ma lei, quando lei ci ha fatto entrare in Europa, si immaginava che saremmo finiti, come dice Soros, in una gabbia in cui non possiamo uscire perché dobbiamo pagare i nostri debiti ai tedeschi e ai paesi del nord? Cioè una camicia di forza? No, ma avevo detto il rimedio per questa gabbia. Se lei legge la famosa intervista che mi ha provocato un sacco di grane, no? Il patto di stabilità è stupido perché ci dà solo dei parametri aritmetici, mentre invece abbiamo bisogno di una politica fiscale coordinata. E quando ho fatto presente queste cose a Kohl e agli altri leader europei, la risposta non era no, la risposta è hai perfettamente ragione e la faremo subito, in seguito. E poi in seguito invece l'Europa è entrata nel periodo della paura, ma era chiaro che bisognava far seguire l'euro da una politica di coordinamento finanziario ed economico. È quello che non è stato fatto che ci mette dei pasticci, non quello che è stato fatto. Allora, resti con noi, professor Prodi, ancora qualche minuto, ho il GR con gli aggiornamenti, poi vorrei invece ascoltare l'ultima parte dell'intervento di Enrico Letta che riguarda proprio l'austerità, il fine dell'austerità come dogma. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei continuare e concludere l'intervista con il professor Romano Prodi sui temi toccati da Enrico Letta nella sua prima e unica per adesso dichiarazione alla stampa dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dicevamo, professor Prodi, dei temi interni che però si legano, come spesso ripetiamo anche noi, ai temi europei, cioè non c'è possibilità di muovere finanziamenti e iniettare nel sistema economico italiano maggiore liquidità se non arriva un via libera europeo. Tra l'altro faccio notare che, come pubblicato anche da Sole 24 Ore recentemente, sono oltre 12 miliardi di soldi che solo i comuni italiani hanno in, in tasca e non possono spendere per il patto di stabilità interno. Professore, prima di passare ai temi europei, ascoltando cosa ha detto Enrico Letta, è una domanda che però mi pongono sempre gli ascoltatori, io gliela devo girare per forza. Le chiedono, ma insomma, lei accettò il cambio dell'euro, lira euro, a 1936 e questo è stato l'inizio dei nostri problemi interni sul fronte dei consumi. Mi dà una risposta? La risposta è che era il nostro obiettivo massimo, da tutti sognato, era una lira, mille lire un euro? Mille lire, no, mille lire un marco, quindi 2000 lire, insomma, circa. Noi ci siamo arrivati vicinissimi. Quando abbiamo fatto il cambio 990 a un euro era una felicità totale, e con i tedeschi fu durissima, addirittura la Banca d'Italia aveva detto che accettava anche 950 e 930, quindi abbiamo avuto il massimo. Siamo entrati col massimo di svalutazione possibile della lira, cioè in condizioni assolutamente non sognate nelle settimane precedenti. Questa è la verità, e mi ricordo la felicità di Ciampi quando riuscimmo a ottenere questo, e fu una lotta durissima. Mi ricordo l'ultima telefonata con Kohl, che a un dato punto mi disse: senti, io 1000 lire non posso perdere la faccia, 990 chiudiamo, e io ho detto chiudiamo a 990. È stato un vero successo, lo prenda i giornali di allora, è che adesso si, con l'ignoranza, si cambiano tutti i parametri di riferimento, ma la verità era che noi volevamo entrare con la lira più svalutata possibile per essere concorrenti commercialmente, e ci siamo riusciti quasi al massimo possibile o sognabile rispetto al marco, che poi fungeva da parametro. Beh, certo, per l'euro, certo. Ma poi tutto ruotava attorno al marco, no? Il parametro era solo col marco e il resto si stabiliva intorno al marco. E quindi le dice, l'Italia puntava a fare 1000 lire per un marco, arrivò a 990 lire per un marco, che era il massimo. Mi sembra l'obiettivo ci concessero. E veniamo a questa Europa la cui austerità viene messa in discussione, non, o meglio, la cui efficacia dell'austerità viene messa in discussione non solo dal capo economista del Fondo Monetario Internazionale Blanchard, dal vicepresidente dell'Unione Europea, dal premio Nobel Stiglitz, Krugman, da Soros, da tutti quelli che ci guardano, tranne, diciamo, che dalla banca, dalla Bundesbank. Oggi Widmann è tornato a dire non se ne parla neanche di allungare i tempi di rientro sul deficit di questi paesi, mentre il ministro delle finanze tedesco Schäuble ieri ha detto: ma perché, l'Italia è un paese in cui si vive benissimo, io ci vengo in vacanza. Gli abbiamo fatto notare che non è che dove uno va in vacanza è sempre un paese in cui si vive benissimo, no, nella vita. E poi, con i dati che abbiamo, sembrava anche un po' diciamo mancare di rispetto ai record sulla disoccupazione, sul crollo dei consumi, sulla disoccupazione giovanile, sulle imprese che chiudono, ripeto, perché fa sempre bene, nella durata di questo programma, un'ora e mezza, chiudono in questo paese tre imprese, così ci regoliamo come metro. Sentiamo Enrico Letta proprio sui temi europei, mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Buonasera, Guido. Buonasera a voi. E poi, chiaramente, se vorrei fare una domanda a Romano Prodi, benvenga. Enrico Letta sull'austerità. La politica ha perso tutta la sua credibilità, lo si è visto in questi mesi e lo si è visto dalla risposta dell'elettorato, dalla risposta popolare. O si ritrova credibilità tutti e tutti insieme, oppure non c'è possibilità di avere strumenti che siano in grado effettivamente di risolvere i problemi. E i problemi non si risolvono da soli, c'è bisogno di strumenti che soltanto la politica può avere. Ecco perché metto e metterò grande impegno, determinazione a far sì che da questa vicenda possa uscire una politica italiana diversa, attraverso riforme costituzionali che sono necessarie per ridurre il numero dei parlamentari, per cambiare il sistema di bicameralismo paritario che abbiamo, che è uno degli elementi che ha bloccato il Paese, a partire da questa stessa situazione, una legge elettorale che è diversa tra Camera e Senato, ha dato maggioranza diversa tra Camera e Senato e ha finito per bloccare completamente la situazione. Bloccarla a tal punto, lo sappiamo, che se anche si rivotasse immediatamente, probabilmente l'effetto di blocco sarebbe comunque uguale, non ce lo possiamo permettere. Ecco perché mi appello alla responsabilità di tutte le forze politiche e insisto dicendo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Parlerò con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, soprattutto perché su questi temi della riforma necessaria per ridurre il numero dei parlamentari, cambiare la legge elettorale, tutti gli elementi che oggi sono essenziali, dovremo farlo insieme con la più larga partecipazione possibile. Naturalmente tutto questo si può fare se l'Italia in Europa continua a tenere una linea di forte impegno perché cambi il timone, la barra delle politiche dell'Unione Europea, troppo attente a politiche di austerità che, come ha detto anche il Presidente della Commissione Europea l'altro giorno, non sono più sufficienti. Allora, professor Prodi, visto che lei è stato anche Presidente della Commissione Europea, che cosa dovrebbe fare Enrico Letta, ammesso in un concesso che riesca a formare il governo? Andare in Europa e battere i pugni? Sì, battere i pugni, perché oggi può avere l'alleanza di tanti paesi, quindi li può battere in modo efficace, perché i pugni in astratto non serve niente, picchiare i pugni contro il muro. Oggi il muro si è allentato sia per gli aspetti ideologici che lei ha sottolineato prima, sia perché la Francia è nelle grane fortissimo, la Spagna non ne parliamo, l'Olanda, come lei ha detto, come abbiamo visto, comincia ad aver paura. Allora abbiamo la possibilità di una alleanza molto forte che l'Italia deve aiutare a costruire. Questo è quello che deve fare, perché sennò astrattamente picchiare poi i tavoli da solo ti danno solo del lazzarone che vuole spendere. Secondo lei ha sbagliato Mario Monti nella seconda fase a non essere più incisivo, a non appunto battere i pugni? Io ho scritto approvando la politica del governo fino a luglio e poi ho scritto chiaramente che qui il paese scivolava e che bisognava guardare anche al denominatore, cioè la crescita, e non solo al numeratore, cioè il deficit. Guido Gentili, se vuoi girare una domanda a Romano Prodi e poi vorrei invece parlare con te anche dello scenario più politico delle maggioranze possibili. Guido? Sì, innanzitutto devo ricordare che Prodi in tempi, il professor Prodi in tempi non sospetti, quando era la guida della Commissione Europea, parlò del patto stupido del patto prima. Europeo di stabilità, e che quello, diciamo, devo dire che la storia da questo punto di vista poi gli ha dato ragione, purtroppo. Esatto, vorrei chiedergli, condividendo assolutamente quello che lui ha detto per quanto riguarda il possibile ruolo dell'Italia in Europa in questo momento, in questa fase, qual è invece la prima cosa che a suo avviso va fatta in Italia dal nuovo governo? Va fatta in Italia due cose contemporaneamente: cuneo fiscale sul lavoro, cioè mossa che io feci nel mio governo, alleviare i costi indiretti del lavoro perché le imprese ci stanno soffocando, e contemporaneamente credito e pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, cioè in poche parole, ma insomma il mondo sta reflazionando, il Giappone fa una reflazione enorme, gli Stati Uniti danno energia, la crescita in Asia, pur essendo minore di qualche mese fa, è altissima, in Africa è oltre il 5%, gli Stati Uniti è il 2%, l'Europa 0%, ma quando sei in questa situazione si fa presto a dire che cosa bisogna fare, bisogna mettere del combustibile, non c'è mica niente da fare, insomma, se no l'economia non va avanti, quindi queste sono le tre misure serie che aumentano la concorrenza immediatamente. Ripeto, cuneo nella diminuzione del costo del lavoro, secondo il pagamento del debito della PA, terzo il problema del credito alle imprese, perché in questo momento veramente le banche, a volte per una politica troppo prudente, a volte per la loro situazione difficile, stanno chiudendo i rubinetti, e se lei guarda addirittura sia i depositi che gli impieghi stanno calando, e questo mi preoccupa moltissimo. Ecco, un'ultima cosa, professor Prodi, però sulle riforme a cui accennava Enrico Letta, cioè riforma elettorale e taglio dei parlamentari, anche quelle insomma, non hanno un carattere, un impatto economico immediato, però rendono più governabile il paese. Lei mi ha chiesto sulle cose immediate, sì, certo. Gentile mi ha chiesto le prime cose da fare. Evidentemente, se noi non mettiamo una legge elettorale con la quale si riesca a definire chi vince o chi perde, è finita. Ripeto da anni, la legge elettorale non serve a fotografare un paese, serve a dargli un governo. E quindi, se noi avessimo avuto la legge elettorale alla francese, noi oggi saremmo tra i leaders europei. Un'ultima domanda ce l'ho io però per lei, e poi adesso torniamo anche su Enrico Letta. È invidioso, rimpiange o è contento per lo scampato pericolo rispetto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano? Oh, guardi, lei potrà anche pensare che adesso sto giocando nella risposta, ma io sono molto felice, perché sono una persona felice. Ma è felice per Napolitano o è felice per lei che non ha dovuto prendere il suo posto? Sono felice per me che non ho dovuto prendere il posto, insomma, perché è una responsabilità enorme, e allora uno deve essere pronto se capita a prenderla, ma se la scampa uno deve essere estremamente sereno. Lei doveva vedere come era felice mia moglie quando sono tornata a casa dal Mali, insomma, no? Era proprio... No, non ho capito, era felice perché è tornato a casa dal Mali sano e salvo, no, perché non hanno eletto Presidente della Repubblica? Perché sono tornato non Presidente, e perché è una responsabilità, è un peso grosso. Allora uno dice, vabbè, se capita io lo devo affrontare nel migliore dei modi, ma se il nostro Signore te lo risparmia, bisogna solo essere contenti, ecco. E tornare alle elezioni sarebbe l'ipotesi peggiore nel caso Letta non ce la facesse? Le elezioni presentano sempre un momento di sofferenza e di difficoltà per il paese. In questo momento noi abbiamo bisogno di un governo che agisca estremamente in fretta. Andare alle elezioni vuol dire, soprattutto perché siamo in periodo pre-estivo, vuol dire avere 6 mesi di altra paralisi. A me fa paura, ecco, a me fa paura. Le giro in realtà un'ultima domanda che pongono gli ascoltatori: ma se la Germania, forte della sua posizione economica, ma soprattutto che ha le elezioni a settembre, dicesse di no anche di fronte a un irrigidimento italiano supportato dalla Francia e dalla Spagna? Ah, è anche possibile che questo lo faccia, perché fino a settembre, per avere qualche cambiamento, bisognerà spingere molto. Ma la classica domanda dice, ma se due treni si scontrano, si scontrano, voglio dire, io credo che sarebbe una politica sciagurata con la quale difficilmente noi possiamo invertire la situazione della disoccupazione che lei ha descritto prima, cioè è una politica che fa danno, non c'è nessuna garanzia, perché poi anche Schäuble ci sfotte, non c'è nessuna garanzia che venga cambiata, però se non viene cambiata la situazione peggiora. Guarda, io sono d'accordo con lei, non perché mi ospite, perché insomma la posizione tedesca ci sembra assurda da molti, già da come gestire la situazione greca, ma non posso ritornare su vecchi temi di questa puntata. Grazie al professor Romano Prodi, mi fa piacere sentire che in famiglia sono tutti contenti che lei non sia stato eletto Presidente della Repubblica. Evidentemente il ruolo di Giorgio Napolitano è particolarmente delicato. Chiedo a Guido Gentili un minuto di pazienza perché ho le informazioni sul traffico e poi con te gli scenari più di carattere anche politico, la parte dei contenuti insomma l'abbiamo illustrata, gli scenari che si aprono in questo momento, da dove potrebbero arrivare anche le spine maggiori per un eventuale governo di Enrico Letta, il quale ha detto non farò il governo ad ogni costo. Il traffico. Focus Economia. Allora, Guido Gentili, no, l'ho tenuto un po' più a lungo perché insomma anche la cosa sulla moglie contenta quando rientrava dal mare non era male, eh? Sì. No, nel senso che... Poi c'è un ascoltatore che mi scrive invece che lui era sul volo Parigi-Bologna assieme a Prodi per caso e che il professore era molto seccato da questa cosa, forse era più seccato per quello che è successo in Parlamento che non per aver perso la Presidenza della Repubblica, ma ormai quella è storia. In questo paese tutto invecchia a una rapidità incredibile, anche i 100 voti mancanti per Prodi come Presidente della Repubblica. Invece il ragionamento da economista, a mio avviso, insomma, lo dico molto, molto esplicitamente, non fa una grinza. Devo dire che così la pensa anche una persona molto distante da Prodi come l'ex ministro Tremonti, per esempio, sui temi legati all'Europa. Allora, veniamo invece alle sfide che attendono Enrico Letta. Abbiamo visto i grillini dire no, già, perlomeno alle prime dichiarazioni. Quali potrebbero essere gli ostacoli? Insomma, lui ha detto molto chiaramente... la situazione è fragile, non può continuare, mi impegno perché il paese ha bisogno delle risposte, le priorità le abbiamo ascoltate, però ho detto attenzione, utilizzerò il minor tempo possibile, ma non farò un governo ad ogni costo. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire un'avvertenza nel segno della prudenza, perché il quadro politico è oggettivamente complicato, difficile. Enrico Letta è premier incaricato, ma è anche, non dimentichiamolo, vice segretario del PD, quindi è una personalità politica di primo piano che va ad assumere questo incarico. Questo ovviamente sgombra il campo dalla figura del tecnico premier, diciamo, e apre però l'orizzonte al necessario accordo, del resto auspicato dallo stesso Presidente Napolitano in Parlamento, con il PDL. E qui arrivano i problemi, nel senso che sarà difficile, sarà complesso quantomeno per Enrico Letta, dosare la presenza dei politici in questo governo, perché sappiamo che nello stesso Partito Democratico c'è una forte resistenza, un forte mal di pancia contro l'ipotesi di una, chiamiamola così, organica con il PDL. E quindi questo sarà il punto di equilibrio molto difficile che dovrà raggiungere Enrico Letta nelle prossime ore. Una domanda, Guido, però per inciso, da quello che tu hai capito, perché alla fine si è optato per un politico come Enrico Letta, e tu giustamente lo ricordi, è vero che fa parte anche dell'Aspen Institute, dove c'è anche Giulio Tremonti, però è vicepresidente del PD, e non per Amato, che aveva un profilo più, da tecnico, più super partes. Sì. Io vorrei ricordare, sembrava l'ipotesi, fino a ieri sera sembrava l'ipotesi più forte, più probabile, quella di Giuliano Amato. Vorrei ricordare però un episodio che appartiene alla storia, ma alla storia recente, e quindi nel novembre del 2011, quando si andò a formare il governo Monti, e ci fu un momento in cui apparve chiara la possibilità di una doppia vicepresidenza del Consiglio insieme a Monti, una affidata a Giuliano Amato e l'altra ad Gianni Letta, lo zio di appunto di Enrico, quindi una in quota PD e l'altra in quota PDL. L'ipotesi non andò in porto, per quanto riguarda Amato non andò in porto perché nel PD si disse sostanzialmente Amato non rappresentava il PD in larghissima parte. Quindi questo credo che sia una difficoltà che è rimasta in piedi ancora fino a ieri sera, e questo che sia il motivo per cui alla fine non sia andata avanti l'ipotesi, certo, di Amato, che però con la scelta di Letta, ripeto, porta alla necessità di dover fare un accordo di tipo politico, assolutamente, con il PDL. E questo, con il PDL, per forza, perché Grillo si è tirato fuori, fin da subito. Qualche toto ministro, già Letta ha detto: so che impazzerà il toto ministro, ma dirò i nomi solo a Napolitano quando e se scioglierò la riserva. Sì, anche questo è un richiamo alla prudenza. Ma tu hai qualche nome? No, i nomi ne girano tantissimi e sono tutti buoni nomi o nomi da bruciare. Credo che questi li avremo solamente nelle ultimissime ore, perché dovrà dosare, tra l'altro, oltre alla presenza politica, quelli che sono i tecnici certo, in qualche modo riconducibili a qualche area di partito. Quindi è un'operazione, come al solito in Italia, molto complessa. I tempi, secondo te? i tempi, ieri nell'ipotesi di Amato si parlava di avere un governo già nella giornata di giovedì, di domani, e invece domani iniziano le consultazioni di Letta e quindi i tempi necessariamente slittano. Però capiremo subito già da domani, dalle prime battute delle consultazioni, come diciamo lui, sì, come Enrico Letta dovrà muoversi sul terreno delle nomine. E quindi questo, e anche che non escluderei che slitti di qualche giorno. Esatto, e anche che aperture arriveranno dal PDL, oltre che dal PD, perché tu giustamente fai notare che pure il PD è bello spaccato al suo interno. Grazie a Guido Gentili. Domani la borsa è aperta, Focus Economia è in diretta regolarmente dalle 17 in poi, quindi noi ci risentiamo domani per vedere come andranno le consultazioni, ma anche per raccontare altri temi dell'economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.